2010 finisce qua. Questo è il traguardo. Ok. In questa vita cresci da clandestino dentro il treno merci. Ti scrivono il destino, ti dicono non emergi. Fin quando non distingui più buoni da quelli inerci. La differenza tra un addio e un arrivederci. Meglio morire vergine a questo punto piuttosto che essere assunto. Se tutto il potere è assunto, da chi ora fa il punto al vertice? È un dio presunto occulto che ti impone tutto come fosse semplice. Ma non leggi nel rischio, tu non mi eleggi Mefisto. Io credo in ciò che ho visto, voi non vi capisco. Se il pane è il corpo di Cristo, il vino è il sangue di Cristo. Voi pregate un dio che predica il cannibalismo. Ho finito le chance, che questo non è un film. Una fottuta routine in ogni suo automatismo. Ho acquisito uno scialanzo in giro per la città. Ma la tua socialità preferisco l'autismo. Ed insisto e registro le tracce che ascolti. Le facce di volti, minacce maltolti. Chi nasce ed infasce, chi tace gli apporti. Ed incerto ricerco la pace tra i torti. Do colpi più forti finché li sopporti. Fino alla lapide spendo lacrime e soldi. E poi non ho più rapporti. Accumulo la merda che mi porti come un tumulo di terra per i morti. Posso provare amore ed odio, forse allo stesso modo, e distinguere il nero dal rosso, il mondo vero dal nostro. Ogni pensiero va a posto. L'ansia mi tartassa, mi rimbalzo nel suo vortice. Come una carcassa dentro un'ambulanza in codice. Passo in ogni stanza, mi controlla a distanza. Finché mi metto in una cassa, fra basta che abbassa il pollice. Basta che apri gli occhi, in caso in mezzo ai blocchi. Capisci che di te sanno tutto come i tarocchi. Creano dipendenza, carenza, astinenza e sconti. Tirano la lenza finché non attocchi. Fatto ma non provo gioia, sopraffatto dalla paranoia. Sento il cuore al tatto, prego che non muoia. Sento il contatto, porco la sua. E recido il contratto che ho fatto col boia. Don't you weep, no.